24 mattino di Alessandro Milan. 7:35 minuti, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci qua con 24 mattino. Subito il sondaggio di oggi, che potete già votare a radio24.it, un po' in basso a destra trovate bianco o nero. In provincia di Mantova, un'amministrazione comunale ha fisso per il paese alcuni manifesti che chiede di comunicare alle autorità l'eventuale presenza di immigrati clandestini. È solo l'ultima di iniziative simili per il controllo all'immigrazione. È un giusto controllo oppure è un invito alla delazione? Denunciate i clandestini, voi lo fareste? Questo vi chiediamo, sì o no, ne parleremo alle 8:30, ora i giornali. In primo piano. Giustizia e politica, politica e giustizia, questo è il menù che ci si prospetta in questo fine novembre e dicembre, come detto anche ieri. Governo PM lite sui processi, così apre il Corriere della Sera. La Stampa, giustizia, scontro ANM Alfano. Per la Repubblica, l'ANM, metà dei processi a rischio. Per chi non lo sapesse, l'ANM è il sindacato dei magistrati. Cari italiani, vi spiego tutto in TV. Questa è l'apertura del giornale. Il Sole 24 Ore, l'apertura economica, chiaramente la ripresa spinge le borse, OCSE, l'Italia cresce più della media UE. E poi lo vedremo, ma come detto la giustizia è appesa, oggi inizia l'iter del processo breve. Ieri abbiamo letto che Repubblica ha intervistato Carlo Azeglio Ciampi, l'ex presidente, a dire c'è la possibilità della non promulgazione da parte del capo dello Stato. Il Corriere della Sera punta proprio su questo. Napolitano e la legge, uso rigoroso dei poteri costituzionali, scrive Marzio Breda. L'unica cosa che si può dire, ma in linea generale, è che il capo dello Stato farà un uso rigoroso delle sue prerogative costituzionali. Questo è il laconico commento dello staff a chi chiede notizie sugli orientamenti di Napolitano, che peraltro ieri ha visto il presidente del Senato Renato Schifani. Tra l'altro, come detto, l'altro tema che è l'apertura del giornale, ma è trattato anche da molti altri giornali, è proprio questo. Berlusconi pare che voglia andare presto in TV. A fare cosa? A parlare alla nazione. Berlusconi parlerà alla nazione, lo dà per certo Vittorio Feltri. Cari italiani, vi spiego tutto in TV. Scrive Vittorio Feltri, si tratta della sua intenzione di raccontare agli italiani per filo e per segno la lunga e tribolata vicenda con la giustizia. E tra l'altro Feltri dice sarà uno snodo cruciale, perché scrive nel suo lungo editoriale che finisce poi in pagina 3. Tra alcuni giorni, al massimo settimane, aspettiamoci di vederlo comparire sul teleschermo delle principali emittenti nazionali. Conoscendo il personaggio, sarà puntiglioso nella ricostruzione dei fatti, esibirà documenti, esporrà le sue tesi con dovizia di dettagli. Insomma, dimostrerà con la consueta tigna verbale che la magistratura organizzata in partito usa i processi non per far giustizia, ma per farlo fuori. Questa è la storia, cari lettori. Se l'operazione che ha in mente Berlusconi andrà a buon fine, la maggioranza degli italiani sarà con lui. Se invece andrà male, il centrodestra si squaglierà e per il Cavaliere non sarà un gioco da ragazzi salvarsi dalle grinfie e dalle belve aspiranti a dividersene le spoglie. Dunque per Feltri, così siamo a una resa dei conti presto con questo discorso in TV. Il Cavaliere è tentato dal messaggio in TV, questo è anche... Su Repubblica, mi difenderò dalle accuse di mafia, vuole imitare lo scalfaro del 3 novembre 93, quello dell'io non ci sto, dice e scrive Liana Milella, e si augura pure che l'effetto sia lo stesso, parlare al popolo a reti unificate contro le toghe che lo perseguitano. Questo è il piano. Detto che c'è questo scontro sui numeri, sapete che qualche giorno fa Alfano ha detto sarà l'1% i processi che verranno bloccati dal processo breve, l'ANM dice sono il 50% dei processi a rischio, insomma balla un 49%, che non è poco. Alfano replica, date i numeri. Il Fatto titola in apertura, muore metà dei processi, dunque fa sua la verità dell'ANM. Napolitano non firmare, anche per Ciampi il Quirinale può resistere, questo è l'appello lanciato da Il Fatto. L'altra questione politica di tensione dopo le parole di Brunetta su Tremonti è quella dei conti, tanto che addirittura il Riformista titola in apertura così non durano, alla Camera si prepara un nuovo assalto a Tremonti, tre emendamenti anti Giulio, dopo Brunetta ci prova N in Parlamento. E allora il Sole 24 Ore fa una cosa secondo me molto interessante. A pagina 6 che cosa fa? Mette tutte le richieste con tanto di soldi da parte dei ministri o dei ministeri. Dai ministri un conto di oltre 17 miliardi. L'accusa è a Tremonti di tenere le borse, la borsa stretta, i cordoni ben saldati sui soldi e ovviamente quindi sono 24 ore, ecco, mette le richieste per settore. Lo sviluppo economico con Scajola chiederebbe 5,2 miliardi. Sacconi, lavoro e salute 4,1 miliardi, l'ambiente, Prestigiacomo 2,7 miliardi, le infrastrutture con Matteoli 3 miliardi, la sicurezza con Maroni 1 miliardo, la Gelmini e l'istruzione 1 miliardo e mezzo di euro, Brunetta, che poi è quello che ha lanciato un po' il sasso nello stagno dicendo Tremonti non può sempre dire di no, 3 o 4 milioni di euro, pochissimi insomma per il suo ministero, per finanziare la commissione di valutazione delle performance della pubblica amministrazione. Dunque Brunetta, che è quello che si è speso di più, almeno si è esposto di più, è quello che in realtà, a meno da questa infografica, da questa ricostruzione interessante del Sole 24 Ore, è quello che chiede meno, 3-4 milioni di euro, insomma diamoglieli. Questo è l'invito a Tremonti, ovviamente. Sullo stesso tema un'intervista al ministro Luca Zaia su Repubblica, ministro dell'agricoltura, che inizia così: ah, io sarei il cocco di Tremonti, perché l'accusa è quella, insomma, la Lega di essere trattata meglio da Tremonti, come vicinanza, così affinità intellettuale politica rispetto agli altri partiti. Ma se le risorse dell'agricoltura sono state tagliate del 48%, altro che cocco, Tremonti non fa distinzioni, i ministri ci mettono passione, ma i tagli non fanno piacere, ma anche a me per primo, ma con la razionalizzazione delle spese Tremonti ha messo da parte un bel gruzzo, lo dice Zaia. Il governo sta facendo bene, eppure quando vado in giro tutti mi chiedono se ci sarà la crisi. E poi dice Zaia, colpa dell'opposizione, ce ne fosse una più forte. Come dice, scusi, chiede Rodolfo Sala, l'intervistatore. Beh, può sembrare paradossale, ma è così. Se dall'altra parte fossero più forti e credibili, noi saremmo più coesi. L'opposizione, insomma, ce la facciamo da soli e questo non va bene, dice Zaia. Io voglio poi aprire una pagina, prima del traffico, sulla questione mafia, perché l'ho citata. Berlusconi parlerà anche della mafia, perché ormai questa deadline del 4 dicembre si avvicina. Che succede il 4 dicembre, direte voi? Succede che Gaspare Spatuzza, che è il pentito che forse è più citato sui giornali in questi giorni, deporrà al processo in cui è imputato Dell'Utri, processo d'appello, e secondo le anticipazioni tirerà in ballo Dell'Utri, tirerà in ballo lo stesso Berlusconi come nascita di Forza Italia all'interno di una logica, insomma, degli anni delle stragi. Berlusconi ha detto, appunto, secondo Repubblica si difenderà anche dalle accuse di mafia, e sui giornali comincia a montare, insomma, questa attesa. Il Giornale, le gesta dei killer mafiosi che sparano sul premier. C'è un'analisi di Maria Teresa Conti su chi è Gaspare Spatuzza, per tutti detto Utignusu, il calvo. Altri lo chiamano lo zio, oppure sul colpo, per la velocità di esecuzione di ciò che fa, specie gli omicidi, decine quelli a suo carico. Gaspare Spatuzza è colui che sta riscrivendo la storia delle stragi di mafia del 92 e del 93, soprattutto chiama in causa i soliti noti, il presidente Berlusconi e Dell'Utri. Vabbè, il profilo, insomma, è quello di una persona che ha alle spalle diversi omicidi. Per fare un favore a un boss, una volta fece irruzione in una casa di una studentessa, la fece abortire con alcune iniezioni. Il dichiarante che ora i giudici osannano ha strangolato un giovane, ha ucciso il nipote di Buscetta. Questo per il Giornale. L'Unità, con Concita De Gregorio, fa un editoriale, a pagina 2, dal titolo Il fattore Spatuzza, dicendo proprio così: ecco, è iniziata sui giornali di destra o quelli di sua proprietà, sua ovviamente riferita a Berlusconi, fanno da giorni ironia preventiva, tecnica in uso anche tra i preadolescenti. Vedrete, scriveranno che le rivelazioni di Spatuzza sono il tassello mancante delle indagini sui legami tra mafia e politica del 93. In realtà, dice Concita De Gregorio, se è impresentabile un premier condannato in primo grado per corruzione, cosa potrebbe essere di un leader indagato per legami con la mafia? E allora ecco torna l'ipotesi circolata qualche tempo fa di chiamare tutta l'alleanza all'appello con una mozione anti-magistratura da mettere ai voti in aula. Chi sta con me e chi è contro? E per concludere questo tema parla dell'Utri. Dell'Utri parla sulla stampa. Intervistato da Francesco Lalicata dice: è un delirio giudiziario nel quale ha avuto una posizione da sempre chiara, che si indaghi pure, ma che non si può avere una durata infinita. Sono trascorsi più di 15 anni, non hanno dimostrato nulla, non siamo ancora in Cassazione, giungono già voci di altre accuse in arrivo. Rivelazioni di Spatuzza e di Ciancimino, vere e proprie baggianate. E poi Dell'Utri fa alcune battute davvero emblematiche, dice: vogliamo essere chiari? La sinistra ha stabilito la lotta alla mafia è cosa mia, stavo per dire cosa nostra, pensi che lapsus. E poi ancora su Ingroia, che ieri è stato difeso da un deputato PDellino, Granata. Granata non conosce Ingroia. Perché buon per lui, dice Dell'Utri, non ha avuto a che farci. Mi dispiace, ma non lo vedo libero da pregiudizi. Il suo comportamento conferma il suo retropensiero ideologico, le frequentazioni politiche, quelle giornalistiche, senza voler giungere a ricordare i Ciuro, le talpe, i vari incidenti di percorso. Mi viene da dire, perdoni la battuta, che ognuno ha il proprio mangano. Insomma, un Dell'Utri combattivo, questo è il tema che da qui al 4 dicembre monterà moltissimo. Noi lo seguiremo. In primo piano. La ripresa spinge le borse, come detto questa è l'apertura del Sole 24 Ore, ripresa economica avviata su scala globale, come confermano anche i dati dell'OCSE. Tra l'altro in Europa l'Italia mostra in questo momento la performance migliore, più 0,6% del PIL nel terzo trimestre rispetto ai mesi precedenti. E questa è la pagina 3, insomma i segnali della ripresa del Sole 24 Ore. Anche se io voglio segnalare quello che parte oggi con Orazio Carabini, l'inchiesta di Orazio Carabini, su che cosa? Sul pendolo del potere nell'economia italiana, un'inchiesta che porterà i lettori a capire, insomma, dalla borsa alle piccole imprese, le banche, i gruppi, grandi aziende in sofferenza, per arrivare che cosa? Al 2010, che è l'anno cruciale per ripartire. Banche, potere, 2010, un anno per ricominciare, ve la segnalo perché parte proprio oggi questa inchiesta curata da Orazio Carabini. Le banche tengono, ma ora sono i soci a contare di più, questo è il titolo della prima puntata. A proposito di finanza, o di finanza barra giustizia, ieri c'è stata una deposizione di Tanzi, Calisto Tanzi, nel processo al crack Parmalat, un'udienza anche drammatica, si può dire, nei toni. Il titolo trattato dalla stampa è: Parmalat pagava tutti i partiti. Tanzi in aula: compravamo aziende per fare dei favori, le banche lo sapevano. Ha definito la più bella azienda che esistesse in Italia Parmalat. Ma un Calisto Tanzi che è apparso molto sofferente, dice: lo si percepisce dal tremolio della voce, dalla resa faticosa a cui consegna la sua confessione. Dice: pagavo tutti i politici, se non a 360 gradi almeno a 358. Le banche sapevano tutto dei debiti della Parmalat, ne approfittavano. E scrive Sapegno: ci restituisce tutto quello che del nostro passato che non passerà più, il nostro capitalismo senza plusvalore. Tra l'altro udienza proprio sospesa, viste le difficoltà espressive dell'imputato, ha detto il PM Vincenzo Picciotti, con Tanzi che ha detto: magari ce la farò domani, ma la parola domani non è riuscita neanche a dirlo. Scrive Sapegno, diceva: domani, magari mi passa, ma quando mi viene ci sono momenti in cui non riesco a dire neanche una parola. Questo è dal 2003 che mi succede, anzi mi scusi, dal 2004 ovviamente. In tribunale c'era anche la protesta di alcuni risparmiatori Parmalat, con stanto di striscioni che urlavano, se uno striscione potesse urlare, vergogna, vergogna, vergogna. Voglio le ultime segnalazioni, trovate ancora tanto di Brenda e l'inchiesta e l'apertura di Libero, sesso, bugie e due omicidi, ve le cito solo così. Sulla questione sicurezza parla Pierluigi Battista, o meglio scrive Pierluigi Battista in prima pagina sulla stampa, perché è il tema del nostro sondaggio di oggi: se i cittadini vigilano, che male possono fare? Peccato per l'uso vagamente militaresco. Sentinelle rischia di ottenere lo stesso effetto delle famigerate ronde, ma l'idea che i residenti di una via, di un quartiere, di una città mettano a frutto il loro spirito civico non sarebbe da liquidare con insofferenza pregiudiziale. Inizia così l'editoriale di Pierluigi Battista e il nostro sondaggio di oggi, sul partendo da un piccolo comune in provincia di Mantova dove l'amministrazione ha detto: segnalate, cari cittadini, se c'è un immigrato clandestino. A Milano parte un progetto pilota dall'assessore regionale a dire: cari cittadini, vigilate il vostro quartiere, segnalatevi quello che c'è che non va. Voi lo fareste? Nel caso di Mantova denuncereste eventualmente un clandestino? Che ne pensate? Questo è il sondaggio, votate, poi ne parleremo alle 8.30. L'ultima segnalazione viene dalla stampa, è questa: in coma per 23 anni ma capivo tutto. È una storia incredibile, trattata da vari giornali, ma Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles della stampa, la tratta più approfonditamente. Quando ha potuto comunicare, battendo un dito su una speciale tastiera collegata a un PC, Rom Oben ha ammesso che degli infiniti giorni passati in prigione aveva cercato di evadere sognando. È la storia incredibile di un uomo che ha avuto un incidente stradale considerato in stato vegetativo persistente dall'83, si è risvegliato dicendo: io sentivo tutto, io urlavo senza che nessuno potesse sentire. Sono stato il testimone della mia sofferenza mentre i dottori cercavano di parlarmi sino al giorno in cui hanno rinunciato. Secondo il medico che l'ha curato, potrebbe essere un caso che riapre il dibattito sul trattamento dei pazienti in stato di incoscienza permanente. È una storia davvero incredibile, ve la segnalo, così come vi segnalo in chiusura: oggi sono i 40 anni della nascita del Manifesto, che esce in doppia edizione, quella normale e quella 1969-2009. Le radici di un'eresia comunista sono 16 pagine allegate proprio nel giorno in cui nacque di fatto il Manifesto 40 anni fa. Siamo qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati. Deborah Rosciani mi fa già dei cenni strani. L'economia, aspetta Deborah, aspetta. Soldi e dintorni. Il solito problema, il solito è sempre quello. Alza il volume delle cuffie. Sai com'è la vecchiaia, la vecchiaia qua, qualche problema... ai timpani. Mancava da un po' questo all'udito. Perché mancava da un po', perché tutte le mattine me lo sistemo da sola, per una volta tanto che ho lasciato fare te, sento niente. Eccola la frecciatina. Buondì. Poi si della Sandra e Raimondo. Bene. Buondì. Buongiorno anche a te. Sei Deborah. Pronta a partire? Te lo fai un volo quest'anno? Che senso? No, così che ne so, hai già così messo in preventivo una bella vacanza con tutta la famigliola. Ma magari. Vediamo un po' entro Natale cosa succede. Sicuramente molti ci stanno pensando, ma a parte le vacanze, come dire, c'è tanta gente che parte anche durante la settimana per ragioni di lavoro e si imbatte in tante problematiche, come quella del volo che parte in ritardo. Allora, secondo Eurocontrol, che è l'organizzazione europea che si occupa di garantire la sicurezza dei voli internazionali nello spazio aereo degli stati membri a questa associazione, il 30% dei voli europei parte in ritardo. È una realtà quotidiana anche per milioni di italiani, se si conta che ad abbassare la media nazionale di un volo in ritardo su tre c'è lo scalo maledetto, tra virgolette, di Fiumicino, con uno scarto medio di 20 minuti di ritardo sulla metà dei voli. C'è una sentenza della Corte europea di pochissimi giorni fa che dovrebbe fare in modo, si spera, che le partenze dei voli possano tornare entro standard accettabili, altrimenti le compagnie saranno costrette a pagare salato. Tra l'altro questa sentenza è in corso di valutazione dall'ufficio legale di Alitalia per vedere evidentemente che effetti potrà avere sulla compagnia, mentre l'ENAC la ritiene già applicabilissima. E allora che cosa potrebbe cambiare? Quali altri diritti avremo come passeggeri? Buongiorno all'avvocato Vittorio Bonaguidi, un amico di Soldi e Dintorni e Salvadanaio, un avvocato giusconsumerista ed è legale dell'associazione Telefono Blu SOS Consumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le novità da Lussemburgo. La Corte di Giustizia, appunto, dell'Unione Europea, dicevamo, ha emanato questa sentenza che stabilisce lo stesso trattamento fra chi si ritrova il volo cancellato e chi lo aspetta da più di 3 ore. Adesso spiegheremo quanto rimborso, quanto indennizzo spetta a seconda del tipo di disagio, ma avvocato, la prima cosa che le chiedo è: qual è la portata di questa sentenza? Perché conoscevamo già dei sistemi di indennizzo per chi subisce i disagi in volo o negli aeroporti. Che cosa vuol dire tutto questo? Ma io la vedo come una conferma di un orientamento che comunque era già in cammino verso questa soluzione. E i giudici nazionali, in particolare già alcuni giudici di pace erano arrivati a queste conclusioni, quindi erano arrivati comunque a quali conclusioni? A quelle comunque di considerare come restrittive diciamo le responsabilità della compagnia aerea, su che cosa? E qui c'è una conferma nella sentenza della Corte di Giustizia, cioè l'onere della prova a carico della compagnia per discolparsi, diciamo così, dall'inadempimento è molto stretto, perché c'era un aspetto da valutare, la compagnia poteva discolparsi adducendo, come spesso faceva, che il ritardo o la cancellazione era dovuto a cause estranee al controllo del vettore, quindi estranee al suo controllo, e diceva sempre, rispondeva, ma il ritardo o la cancellazione è dovuto a circostanze eccezionali. Sostanzialmente. E adesso diciamo che il campo delle circostanze eccezionali si delimita un po'. Quelle che cosa cambia? Ecco, ma già la Corte di Giustizia, è importante conoscere che questo è già il secondo provvedimento della Corte di Giustizia in merito non tanto all'introduzione del ritardo, che sicuramente è una sentenza storica sotto questo profilo, quindi si ricorda, quindi non solo per la cancellazione o il classico overbooking, ma anche per il semplice ritardo, e quindi sicuramente questo incide pesantemente. Ma è la seconda volta che appunto la Corte si pronuncia, già si era pronunciata nel dicembre 2008, e qui la seconda volta si ripete e dice, attenzione, diamo una definizione tecnica di cosa si debba intendere per circostanze eccezionali, che quindi il vettore non avrebbe potuto evitare, e quindi per circostanze eccezionali si devono intendere solo proprio quelle circostanze che a cui il vettore, da un punto di vista tecnico, quindi anche la semplice avaria del mezzo, non è una circostanza eccezionale che discolpa, per così dire, certo, la compagnia. Non è un temporale che sostanzialmente blocca tutto un aeroporto. No, si arriva a fare una esemplificazione, già questa era stata fatta nel 2008. Devono essere, da un punto di vista tecnico, delle circostanze che arrivano addirittura a individuare dei vizi di costruzione dell'aereo, quindi delle circostanze veramente straordinarie, certo. E straordinarie. Ecco, questo secondo appunto gli operatori, io credo sia la circostanza più importante, certo, da valutare, quindi la Corte si ripete, e quindi questo è un principio importante, perché diciamo, questa prassi invalsa delle compagnie aeree di così laconicamente affermare il ritardo o la cancellazione dovuto a cause estranee al controllo del vettore, a circostanze eccezionali non evitabili, è sicuramente una affermazione che d'ora in avanti può essere replicata molto bene. Molto più facilmente rispetto al passato. Allora, che cosa ha stabilito poi nella concretezza a Bruxelles, anzi la Corte di Lussemburgo? Se l'aereo è in ritardo da più di 3 ore si può ottenere un rimborso che va dai 250 ai 600 euro, proprio come già succede nel caso di volo cancellato. Come variano poi questi rimborsi, avvocato Bonaguidi? Ma si valutano come sempre le tratte, quindi per percorrenze, voli appunto intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1500 chilometri c'è una franchigia di euro 250, per voli superiori a 1500 400, e per quelli internazionali tra 1500 e 3500 chilometri euro 600. Avvocato, per carità, va tutto bene, non è che su queste cifre possiamo stare a contestare, però qualche volta rispetto ad un volo cancellato ci può essere anche un impegno di lavoro cancellato, un disagio che segue rispetto a quello che può capitare ad un passeggero, e come li valuta questi rimborsi lei dal punto di vista della pecunia? Sicuramente, infatti volevo precisarlo, sicuramente oramai negli ultimi tempi anche su questo aspetto, quindi il cosiddetto maggior danno rispetto alle franchigie, da un punto di vista patrimoniale, il danno patrimoniale da diversi giudici nazionali è stato individuato e giudicato anche ove sussistano le prove come danno superiore dal punto di vista della quantificazione, quindi se viaggia il lavoratore che perde un appuntamento importante, che è costretto a permanere in aeroporto nei vari scali per appunto sicuramente tante ore, Sicuramente c'è la possibilità di vedersi riconoscere un danno patrimoniale superiore. Molto più alto. Tra l'altro c'è una cifra anche precisa che viene individuata dalla Carta dei diritti del passeggero. C'è peraltro una nuova edizione da marzo scorso, realizzata dall'ENA, che è il nostro ente nazionale dell'aviazione civile. Arriva addirittura fino a 4.800 euro, se non sbaglio. È verissimo. Questo serve sempre per così dire parametrare il più possibile il danno, e quindi questi sono meccanismi che servono anche in un certo senso a sveltire la giustizia, quindi certo, l'individuazione predefinita di alcune voci di danno, anche se in genere per alcune circostanze è difficoltoso identificare compiutamente da un punto di vista quantitativo il danno. E infatti, avvocato, io devo salutarla perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però insomma il suggerimento è quello di, per chi si appresta a partire e magari già teme che qualche problema possa capitare, perché la frequenza è molto alta, lo sappiamo tutti, che si porti dietro, oltre alla Carta dei diritti del passeggero dell'ENAC, anche magari il testo di questa sentenza di Bruxelles, e quindi sa insomma quali diritti ha. È corretto. Esatto, nel caso incappi in queste disavventure tutt'altro che infrequenti. Grazie, avvocato Bonaguidi. Benissimo, la ringrazio, la auguro una buona giornata. Buongiorno. Presto. Alessandro. Valigia e sentenza in aeroporto. Ma quante ne sai? Bello. Con valigie e sentenze al check-in. Ma guarda, direi che la carta dei diritti del passeggero è cosa buona così, e giusta. Esatto, così, infatti. No, anche perché magari poi ti capitano queste cose e non fai nell'immediato tutto quello che dovresti fare per tutelarti, resti fregato e poi ci perdi tempo dopo. Salva Danaio. Acqua privatizzata, ti ricordi la grande polemica della settimana scorsa? Oggi cercheremo di, visto che adesso le bocce sono un po' più ferme, cercheremo di indagare su quali conseguenze potrebbero esserci per i consumatori, visto che già le associazioni dei consumatori parlano di un possibile aumento delle tariffe di almeno il 30%, ma insomma è tutto così cattivo tutto ciò che è privatizzato. Andremo a scoprirlo. Sì. Oggi parliamo del sondaggio, partiamo dall'amministrazione comunale in provincia di Mantova, un paesino, che ha detto sostanzialmente: sapete se ci sono degli immigrati irregolari, dovete segnalarlo subito al comune, alla polizia municipale, eccetera. C'è chi dice è un giusto principio, c'è chi dice no, è una delazione sbagliata. Insomma, voi denuncereste un clandestino, denuncereste qualcosa che non va? Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Comincia oggi al Senato l'iter sul disegno di legge del processo breve. Sono a rischio il 50% dei dibattimenti, denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati. Giocano coi numeri, la replica del ministro Alfano. Intanto Berlusconi starebbe valutando l'ipotesi di un messaggio televisivo agli italiani sulla giustizia. Il caso Marrazzo si indaga ora su un secondo omicidio, potrebbe essere infatti stato ucciso Gian Guerino Cafasso, lo spacciatore indagato dai carabinieri come fornitore del video che ritraeva l'ex governatore del Lazio in compagnia di una trans. Cesare Battisti ha sospeso lo sciopero della fame, che portava avanti da 10 giorni, come gesto di fiducia nei confronti del presidente Lula. Battisti, che in Italia deve scontare 4 ergastoli, è in attesa proprio della decisione sulla sua estradizione in Italia da parte del presidente brasiliano. Infine stasera torna la Champions League, la penultima giornata dei gironi. L'Inter è a Barcellona contro i campioni d'Europa, mentre la Fiorentina ospita il Lione. Una vittoria qualificherebbe entrambe le formazioni agli ottavi di finale. Allora, 8:35 minuti, eccoci qua, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. La domanda l'abbiamo fatta volutamente così, molto tranchant, perché insomma sapete ci piace bianco o nero, no? D'altronde. Ma voi denuncereste un immigrato irregolare? Perché vogliamo partire da una vicenda che ha reso protagonista, non so se con grande gioia, per il motivo per cui è finito sui giornali, un paese, San Martino dall'Argine, in provincia di Mantova, di cui saluto l'assessore ai servizi sociali Cedric Pasetti. Buongiorno assessore. Buongiorno, quanti fate di abitanti? 1800 circa. Allora, ieri Repubblica citava: l'amministrazione comunale ha affisso alcuni manifesti nel quale si conclude così: chiunque fosse a conoscenza della presenza sul territorio comunale di immigrati clandestini è pregato di comunicarlo con tempestività al sindaco, all'ufficio di polizia municipale o all'ufficio anagrafe del comune per i necessari atti conseguenti. Grazie. Bellissimo. Della collaborazione. E perché avete fatto questo che alcuni dicono, ma cos'è, una delazione, una spia? Ma credo che la nostra iniziativa sia stata strumentalizzata, c'è stato un attacco mediatico molto forte, ma le dico, è stato, le motivazioni sono state effettuate per due ordini di motivi. Uno, avvertire la nostra cittadinanza di un reato, perché con l'emissione di questo provvedimento, decreto sicurezza, si è dato ampio risalto al reato di clandestinità. Ma nessuno, e neanche i media, hanno dato risalto al fatto che chi loca un immobile a un extracomunitario senza permesso di soggiorno rischia pene abbastanza pesanti. Sì, è vero. La reclusione da 6 mesi a 3 anni, per cui abbiamo immaginato una situazione di questo tipo nel caso un nostro concittadino si trovasse in questa condizione, per cui le forze dell'ordine avessero accertato una situazione di questo tipo, avrebbe avuto un procedimento penale. Secondo ordine di motivi, e questo a dispetto di quanto può dire l'opposizione, perché poi alla fine chi si è scagliato contro queste iniziative è stata la sinistra, mentre sondaggi vari che poi nel web e le televisioni hanno effettuato, più del 70% ha dato ragione alla giunta. Comunque la seconda motivazione è stata appunto quella di tutelare quello che è l'extracomunitario senza permesso di soggiorno. Noi nel nostro territorio, e le dico questo perché ha circa una ventina di chilometri, ma anche state nel comune di Viadana, settimana scorsa sono stati salvati proprio quasi da una morte certa 18 pakistani senza permesso di soggiorno che vivevano in un'abitazione di 70 metri quadrati. Va bene, ho capito, e questa è una cosa meritoria. Allora, però dico, perché questo invito a dire, cioè lei dice abbiamo voluto informare la popolazione che chi affitta un immobile dopo il decreto sicurezza a un immigrato non regolare rischia sanzioni penali, e che c'entra però, voglio dire, segnalate, guardi, ripeto, se sapete che c'è un immigrato clandestino, segnalatelo, è abbastanza chiaro l'invito. Guardi, insomma. Io ritengo che noi nel nostro comune di San Martino vogliamo attuare una sicurezza a 360 gradi, per cui i cittadini hanno, secondo me, il dovere civico di collaborare con le istituzioni, cioè si dice che i cittadini hanno l'obbligo di riferire allora quando ci sono momenti di situazioni come un marciapiede rotto, un palo della luce storto. Io credo che per quanto riguarda il discorso di sicurezza i cittadini devono farsi parte diligente per aiutare quelle che sono. Quindi se sanno che uno è non regolare devono segnalarlo tempestivamente, come devono, cioè il vostro invito è questo, insomma, il nostro invito è questo, ma non è un obbligo giuridico, questo è ritengo un ausilio, un tentativo di collaborazione con quelle che sono le autorità. No, ma è molto chiara la sua posizione, assessore, stia con noi. Tra l'altro voglio salutare anche l'assessore alla protezione civile e prevenzione polizia locale della regione Lombardia, Stefano Maullu. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Per un'altra vicenda, ma tra poco la spiegheremo. E voglio salutare anche Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Rinaldo, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, prima un commento, insomma, a questa vicenda di San Martino dall'Argine, che qualcuno ha accostato a quella di Coccaglio, diventata ormai famosa, il White Christmas, che poi non si è ben capito se si chiamasse così oppure no. Gianola. Ma mi sembra sì, sono tutte iniziative che si inquadrano, diciamo, nelle conseguenze del decreto sicurezza, no? Che affida ai sindaci alcuni poteri di ordine pubblico, chiamiamolo così, e poi questi poteri vengono utilizzati in modo, direi, così per quanto mi riguarda, in modo assai negativo, in un modo demagogico, populista, e che nei casi diversi o ispira alla delazione nei confronti dei cittadini stranieri che non sarebbero regolari, oppure si manifestano in vere e proprie iniziative di discriminazione razziale e di persecuzione. Cioè non è il caso del comune di Mantova, in questo caso è solo uno, ma ce ne sono già purtroppo diversi, e che vengono ispirati da, diciamo, questo provvedimento di legge che dovrebbe essere finalizzato a una maggiore tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ma in realtà temo purtroppo che la filosofia che ispira questa iniziativa sia di ordine completamente diverso, cioè sia una finalità purtroppo xenofoba. finalità xenofoba. Tra l'altro hai usato una parola, delazione. So che questa parola delazione fa arrabbiare l'assessore Maullu, assessore regionale Maullu, per l'iniziativa che invece lei starebbe approntando con progetto pilota a un quartiere di Milano. I residenti sentinella, così sono stati definiti, cioè vale a dire residenti che sono pronti a segnalare alle forze dell'ordine se c'è qualcosa che non va nel loro quartiere, possiamo dire così, assessore, più o meno. Ma è questo, guardi, il progetto. Credo che sia il controllo del vicinato, questo è, voglio dire, è la traduzione italiana di quello che nei paesi anglosassoni ormai funziona molto bene da tanti anni e che raggruppa circa 10 milioni di aderenti, rappresenta semplicemente la costruzione di, come dire, di una rete di sicurezza attraverso una collaborazione partecipata, in particolare in un rapporto organico tra i cittadini e la polizia locale, che sono le forze di prossimità. Poi mi consenta, ma parlare di delazione io credo che sia assolutamente fuori luogo. Un cittadino che fa una segnalazione alla polizia locale o alle forze dell'ordine è un cittadino che rispetta la legge. Delatore, poi scusi, è un po' nel lessico, come dire, proprio della malavita, chi fornisce informazioni all'autorità inquirente, alla polizia, chi è uno spione. Cioè a lei non le piace, dice. Ma no, mi pare, voglio dire, come dire... Oggi le viene in soccorso Pierluigi Battista, in soccorso nel senso Pierluigi Battista in prima pagina della stampa, dice, del Corriere, la nuova vigilanza dei cittadini dopo il tentativo, peraltro fallito, scrive Battista, delle ronde è una cosa positiva. Non ho ancora letto. No, dice una cosa positiva. Beh, dice... Allora credo che abbia colto nel segno lo spirito, tra l'altro mi permetta di dirlo, di un lavoro che ci richiama un po' al virtuosismo sociale delle antiche comunità, perché una volta era abitudine, come dire, elevare i comportamenti virtuosi di una comunità e condannare quelli che erano devianti. Credo che questo debba essere un aspetto che in una società che cambia vada riscoperto. A maggior ragione nei piccoli centri dove questo può funzionare o nei quartieri storici delle grandi metropoli. È una vicenda diversa, ma il comune, il sindaco del comune del Mantovano, qui abbiamo l'assessore, secondo lei ha fatto bene a dire chiunque sappia che se c'è un immigrato clandestino lo segnali, insomma, perché... Guardi, io penso a qualcosa di diverso, però le faccio un esempio che va nella stessa direzione. Esistono quartieri di Milano che sono ormai cannibalizzati da un'immigrazione clandestina oppure da un'immigrazione regolare. Quando lei in un appartamento trova qualcuno che sfrutta i clandestini e magari fa stare 12 persone in un bilocale, io credo che vada colpito con estrema durezza chi crea queste condizioni di degrado e di insicurezza. Allora, che sia italiano o che sia extracomunitario, chi mette gli altri nelle condizioni di poter creare focolai di insicurezza va colpito con estrema durezza, e questo è uno dei fatti, come dire, degli argomenti ricompresi nel decreto sicurezza. Allora, ci sono vari ascoltatori, voglio andare da loro, poi torno dal nostro assessore, da Rinaldo Gianola. La domanda che facciamo è chiara: tu denunceresti, voi denuncereste un immigrato irregolare se venite a sapere che è sul vostro territorio? Devo dire per il momento che il 57% vota no sul sito radio24.it. Daniela da Trieste, buongiorno. Lei che farebbe? A tutti. Allora, io non denuncerei mai un immigrato regolare perché mi sembra abbiano molti problemi. Allora, alcune volte sono fastidiosi, abito in un quartiere popolare, però devo dire che i maggiori comportamenti poco civili vengono dagli italiani. Allora, non vedo perché devo denunciare un immigrato solo perché è irregolare. Perché è un reato, certo che è un reato, ma ci sono tante condizioni per cui non può diventare regolare, dalla difficoltà a trovare un lavoro se non ha un alloggio, cioè tutta la legislazione. Sì. E quindi in qualche modo, quando ci sono risse o problemi, basta dire anche dalla finestra: guardate che chiamiamo la polizia, non occorre chiamarla, vanno via. Ah, allora vede che insomma sposa in qualche modo il residente sentinella che vuole l'assessore. Il residente sentinella, sì. Lo devo fare con i locali italiani abitando in un quartiere popolare. Vabbè, il residente sentinella mica è valido, per chiunque vede qualcosa di sospetto, mica sta a vedere la nazionalità, uno vede qualcosa di sospetto, segnala da residente sentinella alle forze dell'ordine. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Voi denuncereste i clandestini, voi denuncereste gli immigrati irregolari, sì o no, che ne pensate? Salvatore da Modena, lei che farebbe? Sì, buongiorno. Niente, io volevo dire una cosa un po' più, partendo da un concetto teorico. Secondo me si è perso da molti anni, forse anche da secoli, il concetto della cosa pubblica, cioè nel senso che la cosa pubblica è di tutti, ma non vuol dire che nessuno la deve tutelare, perché essendo di tutti la dobbiamo tutelare per noi e per gli altri. Quindi? Bene, chi di noi non denuncerebbe e non sarebbe un delatore se a casa propria vede un intruso e non dichiara ai familiari o alla polizia che c'è un intruso a casa propria? Perché se uno denuncia una persona che è a casa propria, un intruso non è un delatore, se invece denuncia un clandestino nella cosa pubblica, vabbè, nella, qui, nella terra dei quindi tutti, lei dice è dovere dei cittadini denunciare, possiamo dire così? È dovere primario, è quasi essenziale, fondamentale. Vi dico anche un'altra cosa, perché se uno vede un mafioso e non lo denuncia diventa un omertoso e quindi fa un reato, viceversa se vede un clandestino e se lo denuncia diventa un perfetto delatore. La sua posizione è chiarissima, Salvatore. Cedric Pasetti, Rinaldo Gianola, vice direttore dell'unità, ha detto tutte queste iniziative, questa ma anche altre, ci sono comuni che hanno messo i numeri verdi dove segnalare gli eventuali immigrati regolari, hanno un che di xenofobo alla radice. Io contesto formalmente questa visione del giornalista. Non si tratta né di delazione, la delazione fascista era un'altra cosa e non la vogliamo neanche menzionare. Non si parla di xenofobia, ma di collaborazione e sicurezza. Io condivido in parte la posizione dell'assessore in Regione Lombardia e condivido la visione dell'ascoltatore di Modena. Qui si sta facendo una disinformazione. I giornalisti e i media riempiono i giornali di parole a favore o contro l'omertà in certi reati, mafia, estorsione, usura. Qui invece si vuole tentare di effettuare una cosiddetta omertà. Qui non riesco a capire perché un comune spinge affinché venga posta in essere la legge, per cui quello che qualcun altro ha stabilito, non io e nessun altro se non il Parlamento, e mentre per altri reati allora in quel caso lì l'omertà no, ma sa qual è l'accusa, ma su questo forse Gianola anche, che ci sono le forze di polizia che fanno rispettare la legge, non cioè è il loro compito, voglio dire. Gianola, questa può essere un'opposizione a fare. Io vorrei aggiungere un elemento, cioè al di là del fattore polemico che è certamente determinante in queste vicende, vorrei segnalare che diciamo il decreto sicurezza è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti legislativi, ma soprattutto di campagne, direi, politiche e ideologiche condotte sul territorio italiano da parte della nostra destra italiana, che ispira una politica della paura, del pericolo verso il diverso, della distinzione di razza, di religione e culture, che fanno un tutt'uno oggi con un disegno politico ben preciso. Ora vorrei segnalare che in Europa l'Italia è l'unico paese che è stato messo sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per non aver recepito la direttiva 43 del 2000, siamo già del 2000, contro le discriminazioni etniche e razziali. Quella direttiva attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. L'Italia è l'unico paese europeo sotto procedura di infrazione per questo caso. Ora, è evidente che c'è un problema di sicurezza nelle città, nei paesi, nelle piccole comunità, soprattutto nelle aree più disgregate socialmente delle grandi città. Questo è evidente a tutti. Ma è anche evidente che le iniziative che sono state perseguite in questi ultimi mesi non hanno funzionato. Cioè le ronde, al di là dell'effetto mediatico, non funzionano e non ci suonano. E io penso anche che l'effetto delatorio, la delazione così come viene presentata oggi, non funzionerà. E sapete perché? Perché le famiglie italiane, le aziende italiane, noi, tutti noi, viviamo anche sul lavoro degli immigrati clandestini. perché la badante ucraina clandestina non sarà denunciata dalla sua famiglia, continuerà a lavorare perché opera e si prende cura delle famiglie italiane. C'è questo termine dilatorio, assessore Maullu, vabbè, ma non è questo, abbiamo detto, insomma, è un termine che lei, ma che guardi, respinge fermamente, ma no, io lo respingo perché delazione mi ricorda tanto omertà. Sì, no, certo, ma come spiegava prima il telespettatore, ma credo anche che francamente per quello che è il controllo del vicinato nulla abbia questo progetto, questa ipotesi di lavoro a che fare con aspetti deteriori, tipo la caccia all'immigrato o altro. A me interessa molto più che in determinate zone ci sia un lavoro di coesione sociale, che ovviamente non è risolutivo con questo provvedimento, ci mancherebbe altro. Però che differenza c'è, assessore, le chiedo, da un normale senso civico, che se io mi affaccio alla finestra e vedo uno che aggredisce un altro dovrei subito chiamare il 113 o il 112, insomma, polizia e carabinieri, dovrei già farlo, voglio dire, che differenza ci sarebbe in questo progetto? Sì, provo un po' a spiegarglielo. Intanto vuol dire lavorare insieme, lavorare in gruppo e non sentirsi individuo isolato che sviluppa attraverso una telefonata quello che normalmente è definito senso civico. Il fatto che una comunità si ritrovi su un metodo di lavoro vuol dire creare partecipazione. Il fatto che ci sia la possibilità di mappare anche visivamente questo perimetro, possono essere 4, 5, 6 vie o un quartiere di villette, serve anche a creare le condizioni non semplicemente di sicurezza partecipata, ma di un approccio, direi, come dire, virtuoso rispetto a questo tema. Tenga conto che esiste un fenomeno che credo tutti conoscano, che è la mappatura diversa che fanno i rom degli edifici, delle case, delle scale, dove si spiega attraverso dei segni leggibili ovviamente loro che lì c'è una persona anziana, che dall'altra parte c'è una persona ricca, che la mattina quell'appartamento è vuoto. No, ma è chiaro, Allora, vuol dire garantire che qualcuno invece di girare la testa dall'altra parte possa dalla finestra intervenire. Ma soprattutto, guardi, farlo con le forze di polizia locale, con i vigili, sui quali questa regione, su questo sistema, questa regione ha investito tantissimo. Va bene, ma però su questo, assessore, la devo fermare perché, come sentite, c'è già la sigla, dobbiamo chiudere. Grazie a tutti, a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. E allora votate, denuncereste un clandestino sì o no sul sito, poi all'una vi diamo i risultati. A domani.